si yo y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Quando voglio esercitare una captatio benevolentiae nella parte più gentile e più tenera del mio pubblico, mi fingo fortemente e appassionatamente interessato alle vicende delle donne sole. Ma delle donne sole, naturalmente, che arrivino a un livello di decenza estetica che possa farmele apprezzare, quindi che abbiano perlomeno un'età che vada sotto gli 80 anni. Poi dopo, naturalmente, il problema delle donne sole mi tocca, mi commuove, mi solletica un po' meno. Beh, a queste mie ascoltatrici disperate molte volte mi rivolgo molto ruffianamente, dicendo che sono perfettamente consapevole dell'insipienza, dell'inconsistenza dei miei colleghi, tradisco vigliaccamente il mio genere dicendo che gli uomini non guardano i tesori che hanno accanto e magari buttano lo sguardo verso paradisi esotici, verso donne che promettono femminilità perdute, verso geishe che vengono dal nord, vengono dai paesi freddi o vengono da paesi caldissimi, che fanno sentire questi uomini come al centro di una grande attenzione, in un caldo accogliente ventre femminile che loro mai avrebbero immaginato di poter avere accanto a loro. E i tesori che in realtà passano indifferentemente sotto il loro sguardo, passano giorno dopo giorno, anno dopo anno, in una triste e terrificante solitudine. Si chiamano le single, con un termine molto, molto generoso, devo dire. Sono delle donne che normalmente non hanno problemi di sopravvivenza, anche perché hanno saputo arrangiarsi, sono donne che professionalmente sono più o meno abbastanza realizzate, sono donne che hanno una certa autonomia gestionale, anche disposte ad intime d'azioni senza necessariamente ricorrere al terrificante ricatto ti amo, non mi ami, ti voglio, sarà per tutta la vita, te la do soltanto per amore, no, la danno anche per passione, per divertimento, per gioia, ma chissà perché rimangono sempre radicalmente sole. Dici, è così difficile trovare uno straccio di marito? Sì, ti dico sì, è difficilissimo, nel senso che dopo 2 anni finalmente di tira e molla io ho deciso di lasciare il mio ragazzo, sono estremamente triste. La cosa che mi angoscia in assoluto è vedere quello che c'è in giro. Io ho 27 anni, ma anche più grandi, è terribile. Gli uomini non ci sono più, secondo me, non ho capito che cosa sia successo. Io mi sento donna, mi sento, non ho un grillo per la testa, non mi metto a fare il maschietto della situazione, eppure è difficile anche se sei donna, perché chi, ci sono quelli che reclamano voglio la donna, quella donna donna, e no, io ne voglio una forte perché deve sapermi tenere testa, fa un casino, guarda, e chi ce l'ha se lo tenga stretto, soprattutto se comunque ci sta bene, perché nel mio caso non era più vita. Chi ce l'ha se lo tenga stretto, dice questa disperata ascoltatrice, che ha la stessa impressione di avere degli anguilloni unti di vasellina tra le mani, che come li stringi sgusciano via, scappano via, fuggono via. Ma cosa avremo noi per essere così ributtanti, così repellenti, così poco attraenti? E allora le donne vanno dallo psicanalista, allora le donne si rifanno, allora le donne si truccano, allora le donne si lisciano, allora le donne si vestono, allora le donne cominciano a viaggiare, cominciano a guardarsi intorno, guardano i più giovani, guardano i ragazzini, guardano gli stranieri, guardano le altre donne, guardano gli oggetti inanimati e elettricamente e vibranti, guardano di tutto, ma sconsolate si fanno sempre la stessa domanda: perché gli uomini non ci guardano? Facciamo colazione alle 7 e abbiamo storie che cerchiamo di dimenticare il più in fretta possibile. Come ci siamo finite in questo pasticcio? Una mia cara amica usciva sempre con dei tipi estremamente sexy, così per divertirsi e basta. Un giorno si è svegliata e aveva 41 anni. Nessuno voleva più uscire con lei, crollò psicologicamente e fisicamente. Non riuscì a tenersi il lavoro. Ecco, poi, come se non bastasse per le meravigliose e spontanee e fantastiche e generose zitelle nostrane, è arrivato anche Sex and the City, in cui dimostra che si può essere felicemente, gnoccosamente zitelle, si può avere questa solidarietà femminile, e si può passare da un posto meraviglioso all'altro, si possono fare delle fantastiche professioni, si può giocare con uomini terribili, con dei salamoni gnocconi, sui quali si può giocare molto, e in una meravigliosa metropoli, anzi nel cuore di una meravigliosa metropoli, sembra che tutto sia facile, tutto sia meraviglioso, anche quei turbamenti, quelle angosce e quelle ansie, quelle solitudini sono sempre compensate le amiche. Poi le amiche escono sempre assieme, le amiche vanno a fare una passeggiatina per Manhattan, le amiche vanno ad acquistare nelle belle vetrine, le amiche vanno in questi locali favolosi, le amiche vanno a questi vernissage fantastici, quindi si compensano. Ma se l'animo di una delle protagoniste di Sex and the City si produce e storicamente si concretizza in una città in cui il monumento più bello e fantastico è una fontana terribile con una palla dentro, accade che è costretta questa persona a scrivere un libro e lanciare La rivincia delle zitelle. La rivincia delle zitelle è il libro con le mani, che è fresco di stampa, che sarà in libreria proprio tra qualche giorno. Storie tragicomiche di amori, sesso e cerette, edito da Spelling e Kupfer, e scritto da Angela Di Pietro. Angela Di Pietro, buongiorno. Buongiorno a te. Ti sei sentita protagonista di una sorta di coming out di un maschio che riconosce e comprende quanto oggi una donna sia ingiustamente sola, donna che vedo davanti, dotata di fattezze estetiche oltre ogni limite di apprezzabilità, quindi sei una bella donna, fai la giornalista, quindi assomigli anche professionalmente a una delle protagoniste di Sex and the City, ma qual è il punto in meno? Realizzando e vivendo anche a volte dolorosamente la condizione di donna sola, sola non perché ti manchino uomini, sola perché non hai un uomo fisso accanto, in una città media della provincia italiana, qual è la differenza fra la zitella nostrana e la zitella di Sex and the City? La zitella di Sex and the City a mio avviso è un po' finta, molto finta. Io ho seguito molto e anche ho apprezzato, gli americani hanno questa mania di fare l'intrattenimento a tutti i costi, il lieto fine, la cosa bella comunque, mai angosciante. Si consolano sempre alla fine. Esatto, e consolano anche con i risultati ottimi, devo dire, però non rivelano mai l'aspetto angosciante, l'aspetto buio, cupo dello status, in questo caso della single. Io ecco, se tu dovessi sintetizzare il momento di più profonda angoscia, quando è? Il pomeriggio, la sera, i giorni di festa? Sicuramente i giorni di Capodanno, la sera di Capodanno, il 31, il veglione di... Perché l'uomo sta sempre con la famiglia, l'uomo della single. Sì, le single molto spesso hanno legami con uomini sposati, uomini che hanno compagni ufficiali, è un dato, non è una cosa che mi invento, perché poi a una certa età... No, statisticamente è così. Arriva, cioè a una certa età ci si accontenta, no? Allora non posso avere il ragazzo della mia età, l'uomo della mia età, ho 35 anni, allora va bene pure l'uomo che sia sposato. Anche perché diciamo la verità, allora un uomo di età media di 40 anni, se è solo, che non è ha anomalo. Una famiglia, è anomalo. C'è qualcosa che non... come dicevano le nostre nonne quando vedevano lo zitellone di 40 anni, ma c'è qualcosa è che anomalo. Non va. Certo. E quindi è meglio andare... è gay, o è matto o è sposato, punto. Quindi meglio un sano anni. Sposato che almeno... Quindi un sano sposato che non ti promette qualche rimasuglio. Come dico nel libro, ti vuole come donna bed and breakfast, però tutto sommato la donna bed and breakfast si accontenta. E cosa diciamo. Chiede lo sposato alla zitella? Alla che, zitella. Che cosa chiede? Sesso. Sesso non necessariamente sesso alla famolo strano. Le chiede sesso perché questa cosa... Forse basta solo sesso, che le no, mogli a un certo punto però la livello questa cosa a tutti, perché è un dato, secondo me, oggettivo. Molti uomini sposati hanno problemi sessuali. Molti degli uomini sposati che io ho incontrato, e magari alimentano la loro, come si dice, allora, visto che siamo già entrati nel vivo della questione, 800 24 00 24, questa è una mattina in cui non consideratemi un conduttore radiofonico, consideratemi un medico, un confessore, il vostro analista. C'è un capitolo molto doloroso nel tuo libro, Il signore con il pisello storto, che sì. Penso che è giusto anche dire che esistono problemi del genere, e una moglie finge una volta pietosamente che non esista il problema, ma in realtà... In realtà, allora, intanto la persona in questione non era sposata, quindi non aveva ancora il problema con la moglie. Non si era mai confrontato con... Credo che a questo punto, a quest'ora... Aveva era questa un po' sorta più di segnale di svolta sinistra. Però io ricordo una cosa, non so se questo sia in tema col... No, no, è tutto in... questa, no, in tema partiamo con... subito dal punctum della però questione. Però devo dire una cosa, che lui, quando io proprio... Non sapevo più come fare, perché ti giravi da una parte, ti giravi da un'altra. Era proprio, diciamo, un angolo questo retto. Questo organo andava di là, poi guarda verso il comodino, ho detto, ma forse c'erano delle caramelle. Era un periscopio, diciamo. No, cioè era impossibile veramente trovare umanamente la via giusta, la via giusta. E quando io ho fatto presente questa cosa, cioè in maniera anche un po' delicata, perché ti dispiace poi sempre, certo, con gli uomini, sono cose che fanno male più a voi che a noi, la donna ha una sindrome da crocerosina. Ok, bravo, grazie. E così lui, poverino, si è messo a piangere, piangeva questo, con questo piselletto sto, e io non sapevo cosa fare, ma insomma ce l'aveva storto. Penso che esistano degli interventi chirurgici che possano riportare. Aveva una trentina d'anni, veniva dalla provincia, da un'altra provincia, era un ragazzo di quelli sani, che ancora non... sano... Vabbè, sono problemi rimediabili. Comunque questo... Ho portato il paradosso alla questione, sì, per dimostrare che in realtà la donna single a cui viene richiesto, oltre che essere bella, autonoma, sessualmente attiva, di avere anche un retroterra di forte istinto materno, di compassione, sì, sì, per questi maschioni che sennò se lo vanno a cercare da altre parti e magari anche pagando, forse, probabilmente. Mi quello trovo che tu, molto d'accordo. Tu dai gratuitamente. Sentiamo Francesca. Francesca, buongiorno. Ciao. Finalmente abbiamo stappato la damigiana dei pensieri e delle confessioni delle donne single. No, io ho chiamato perché hai detto che accettavi anche telefonate sotto gli 80 anni. Quanti ne hai? 67 fatti ieri. Vabbè, dai, ancora. E dunque io... La penombra fa miracoli, dai. No, ma io mi ritengo una bella donna ancora. Vabbè, ancora. Non dire mai ancora. Ancora è un termine riduttivo. Dillo in assoluto. Comunque, guarda, io mi sono separata circa 6 anni fa, dopo 38 anni di matrimonio. Mi ero sposata abbastanza giovane, a 22 anni, perché mio marito mi lasciava molto sola. E adesso? Tutta vita? No, adesso... poi mi pensavo di essermi imbarghita di un 67enne che mi... Invece? E invece... Non era amore? No, da parte mia era amore, da parte del 67enne. Bene, il mondo è crudele. Grazie. Buongiorno. Attenzione che la motosega, come vedi, è molto attiva questa mattina. Va bene. Allora, cosa hai da dire? Niente, io ho un problema, apposta, adesso non voglio sembrare quella esagerata. Io trovo solo uomini che mi vogliono sposare. Com'è possibile? Dove sbaglio? Descriviti con dovizia di particolare, vediamo se troviamo qual è il problema. Allora, sono un entusiasta della vita. Questo mi già è un handicap, perché uno arriva con il suo bagaglio di sfiga, vede una che dice sono entusiasta della vita, dice ma lo so, devi morire. Hai perfettamente ragione, però il mio bicchiere è sempre mezzo pieno, non sono capace di vederlo. Oltre al bicchiere mezzo pieno, cos'altro hai da offrire? Ad offrire entusiasmo, ad offrire ascolto, ad offrire il piacere di fare l'amore, il piacere di stare insieme, il non rompere le scatole. Trovo che le donne... Ma quindi la moglie ideale, giustamente. Giustamente sì, però rappresenta... io non voglio sposarmi, assolutamente. Do il meglio di me sono stata sposata giovanissima. Angela Di Pietro, sentiamo un attimo, visto che abbiamo una consulente esperta in zitellaggio. È una miracolata questa donna, è una miracolata. Voglio sapere anch'io dove è andata. Perché invece il vero problema... Io credo che di tutte le cose che questa ragazza ha detto... Ragazza, c'era 70 anni. No, questa... Eh sì, questa altra... Quanti 32, anni hai? 32, 35. Grazie. Io? 50. 50. Eh beh, 50 anni. Comunque, non molti di più io. Su una cosa sono d'accordo, sul rompere le scatole. Un bellissimo film, Harry, ti presento Sally, non so se lo ricordi. Parlava delle donne a basso e ad alto mantenimento. Ecco, l'uomo credo che voglia una donna a basso mantenimento. Quindi con te, grazie, a basso mantenimento. Chiede poco, ha poche esigenze, sì, quindi è la tipica donna da sposare. Sì. La donna a alto mantenimento, invece, nell'immaginario maschile, è l'amante. È l'amante, meravigliosa. È l'amante, però l'amante da tenere anche quella un po'... A distanza, perché poi l'amante può diventare pericolosa, può mettere a repentaglio matrimoni, insomma legami. Senti, mi piacerebbe che tu mi dessi un inquadramento di una città media, la provincia italiana. Latina è una città non tanto riconoscibile in altri stereotipi, una città giovane, una città costruita dal fascismo, completamente immaginata e idealizzata in una certa maniera. È una città che va famosa per la sua pulcherrima gnocca, è la città delle belle donne. una bella, piacevole e apprezzabile ragazza come te, che si rimuove in un luogo in cui c'è una competitività così alta, com'è però anche in alcune zone di Roma, com'è al centro di Milano, com'è nella media provincia crassa del centro Italia, com'è nelle importanti paesoni del meridione. C'è sempre una suddivisione nelle brave signore che ormai sono sposate, sono le intangibili, intoccabili vestali del focolare, fra il normale zoccolume che gira per strada, che sono altro tipo di donne, e questa fascia intermedia di donne professionalmente realizzate, esteticamente gradevoli, che però non sanno trovare la loro collocazione. Soffri di sentirti fra questa incudine martello? No. Le sposate? Niente, credo, non so adesso se esista un fato, se siamo noi scombinate, se sia proprio un fatto di squilibrio psicologico della donna, dice molte donne single. No, io non la sento questa. Però ho sentito sofferenza, quando parlava l'ascoltatrice, dice tutti mi vogliono sposare, ho detto beata te. Quindi in realtà... No, ma vorrei sapere quante donne italiane, penso ci stiano ascoltando molte donne italiane, non credo che molte single possano dire questa cosa. Penso a 50 anni poi. A 50 anni, penso una su 100. Però anche il fatto che questa donna non si sia sposata, però mi guardi, dice oggi qualcosa. Sono molto forse aumentate. Forse lo chiedono proprio perché sanno che lei non vuole sposarsi. Sindacalmente c'è stato un giusto e concreto affrancamento, adeguamento. I prezzi mensili delle badanti sono abbastanza lievitati. Oggi una badante comincia a essere un lusso. E lo metto che comincia a avviarsi in età pensionabile, comincia a guardarsi intorno e comincia a vedere, una volta esauriti i fuochi esterofili, in realtà una brava signora italiana che si occupa di lui, in realtà è un buon investimento per la pensione, capisci? Sentiamo Alessandro. Alessandro. Sì, io non sono le donne che state parlando, sono l'uomo. Esperienza personale. Marito sposato, 42 anni, figlia stupenda, moglie meravigliosa, devoto alla famiglia. E saltuariamente adultero, penso, no? Come? Saltuariamente adultero. No, guarda. Mai. Ognuno ha i suoi difetti. Se ti diventa adultero vuol dire che non funziona più qualcosa con tua moglie, dunque allora lì è il momento. Io non sarei mai così drastico, adesso sembra, se lo dico io sembra che porto esperienze personali, non è così, ma osservo da molti anni il mondo da questo osservatorio. Potrebbe valere anche per sua moglie lo stesso ragionamento, non pensi, non si illuda che esistano delle certezze assolute anche nelle coppie più cementate tra di loro. No. Persone della vita, ma delle certezze non ce ne sono quasi più, dunque andiamo al punto. So che le fa male dire queste cose. Assolutamente. No, perché sento la voce che cede. Ah no, è un problema di microfono. Prego. Sì, abbasso la radio del tutto, così siamo a posto. Sì. Accompagno la bambina a scuola diversi giorni alla settimana e stuolo di madri davanti al capannello, davanti all'entrata della scuola, e vieni squadrato praticamente come fossi una bestia rara. Cioè, nel senso, e qual è il problema? Si sente tentato? No, assolutamente. Ricordo anch'io i felici momenti che portavo i bambini a scuola, erano momenti intensi, quando prendevi il caffè con le tue mamme colleghe. Ma sì, ma anche andare a fare la spesa al mercato, anche lì ti spogliano tutte per quello. Mi sembra un normale e giusto affrancamento anche del desiderio femminile. Evidentemente lei è un uomo piacevole, desirabile. Qual è il problema? No, ma non era quello il fattore. Era che proprio si vede un gruppo di persone, di mogli, che ormai cercano volutamente l'essere non più sposate, ma cercare quasi loro l'avventura, perché forse non funziona. E lei pensa sua moglie sia indenne da questo tipo di concupiscenza? Ci sto provando a divenire molti pensieri. Noi possiamo illuderci qualunque cosa, ma guardi, quello che avviene per le mogli degli altri avviene anche per le nostre. È giusto ci sia una sorta di fibrillante senso di sorellanza femminile nei confronti del fatto che esistono uomini anche desiderabili per strada, ma questo lo trovo che stimoli anzi ancora di più il fatto a cercare, a curiosare, a provare in tutte le gradazioni possibili anche l'esperienza della conoscenza con altre persone. La donna biologica è un po' più difficile essere single, perché viene capito subito come un essere a disposizione, cioè la single, lungi dall'essere una donna emancipata, libera, che fa un modello ideale, invece è una abbastanza così sola, disperata, in cerca, che si accontenterebbe di tutto, anche dello scrondo, pur di svoltare una serata e quindi vieni presa d'assedio. Sono molto più strategici, ho notato, cioè vedono quanti messaggi ti arrivano, se ti arrivano telefonate, vedono che uno abita da sola, lo capiscono. Se non te lo chiedono vuol dire che loro per primi sono già accoppiati. Beh, certo, se la single ha anche una situazione logistica invidiabile, abita da sola, abita in un posto defilato, ha un portoncino senza portiere, insomma, è, devo dire, una digressione appetibile anche per l'uomo più sposato, anche per l'integerrimo marito che ci ha chiamato poco fa, che notava la sensibilità e la disposizione alla dazione intima delle sue colleghe mamme di scuola, e non si era posto il problema che in realtà in qualche altra scuola, in qualche altro ufficio, sua moglie con le sue colleghe poteva avere gli stessi pensieri. Ma io mi sono resti a pensare queste cose. Questa mattina stiamo parlando di donne sole un po' per scelta, ma un po' anche per condanna, un po' anche per incomprensione. Lo facciamo partendo dal romanzo di Angela Di Pietro, La rivincita delle zitelle, romanzo che da martedì 25 sarà in tutte le librerie, storie tragicomiche di amori, sesso e cerette, Sperling e Kupfer, editore. Rifacciamo un punto con Angela Di Pietro, ci eravamo interrotti con le informazioni dalla borsa. Rispetto al panorama maschile che si presenta la donna single, possiamo dare delle categorie? Io la prima cosa che ti ho obiettato, quando ho visto questa mattina, infatti ti sei inviperita, che in realtà la parte preponderante di questo libro è il rimpianto per gli amori perduti. La tua intraprendenza, la tua lucida maniera di classificare il genere maschile in esseri profittatori che ti dispensano alcuni attimi della loro capacità e tenerezza relazionale, poi il resto del tempo lo dedicano agli amici, al lavoro o al proprio narcisismo o alla legittima famiglia che li assorbe, però in realtà lascia delle tracce profonde nel tuo animo. Tu sei stata fortemente ferita un giorno che hai visto che il tuo amore di allora preparava la valigetta, andava a fare un bel viaggio culturale a Cuba. Ma cosa hai trovato dentro i pedalini? C'erano dei preservativi, si può dire, sì, dei aromatizzati, aromatizzati alla fragola, e io ho fatto un po' di storia, un po' perché per con te non l'hai mai usati, non avevi avuto questa raffinatezza. No, per me sempre ai frutti di bosco, alla menta, ma alla fragola proprio mai. Ecco, allora che film ti sei fatta in quel momento? Fino allora tu pensavi che lui realmente andasse a Cuba a fare un viaggio culturale? Io sono abbastanza fiduciosa. Ma come fate a illudervi? Come fate a illudervi che un uomo vada a Cuba semplicemente per un interesse turistico e non porti anche te? Perché lui c'era già stato, è una persona comunque che si occupa di cultura. E infatti ci vanno continuamente, perché hanno la seconda famiglia lì. Senti, ma non ferirmi fino a questo punto. Io continuo a illudermi che ci fosse anche un interesse artistico e culturale, poi non so quale fosse. Comunque c'erano questi preservativi alla fragola. Poi, nel pedalino. Che poi la fragola, tu dirai che è una sciocchezza. Non era una sciocchezza, perché non solo i preservativi, quindi non solo mi va a cornificare, ma anche con una scelta di gusto che a me non ha riservato, quindi sono peggio di quelle con cui. E come si è giustificato allora? No, lui ha detto li mettevo, no, per sai, così, vabbè, come fosse un arbre magique dentro i pedalini. Bravo, voi uomini, mi dispiace. No, ma io sono ancora più infame. Magari tu questo avrei risposto. Io nella stessa situazione avrei risposto questo. Li metto per profumare i pedalini. L'arbre magique non c'era e ho messo questo. Questo avrei detto, io non lo so. È molto meno sciocca delle scuse che di solito rifilano gli uomini, perché rifilano scuse molto sciocche, non sono. Noi donne o siamo proprio decerebrate totalmente, ci crediamo, o non so. Dove ti porterà questa tua folle inconsapevolezza della perfidia del mondo maschile? Come vedi il tuo futuro? Guarda, il mio futuro lo vedo speranzoso, cioè io sono una che fa progetti a breve termine, cioè non mi piace pensare da qua a 20 anni. Cioè, quindi oggi è venerdì, ti basta organizzare il fine settimana? Ma no, il fine settimana, io oggi già, il fine già settimana. Organizzato? No, ma il piccolo progetto per me può essere anche un pranzo particolarmente appetitoso, per dirti, non credo nei grandi anche progetti. Un margarita bevuto con Purtroppo sono astemia. Beh, questo, se tu me l'avessi detto all'inizio non avremmo manco fatto questa trasmissione. Lo so, questo è il motivo in realtà della tua solitudine. Mi dispiace dirlo, ma se posso dare una sentenza. Però voglio dirti, scusa, è venuta a cena a casa mia recentemente una single che conoscevo da poco per motivi con il tavernello nella lavoro. No, mi ha detto non vengo a cena se non mi fai trovare un liquore. C'ha ragione. Non dico, ma e io a cercare tutto, perché non è neanche un liquore troppo conosciuto. Dice quello e se ne è fatta mezza bottiglia. Quindi la stemmia con l'estate e lei con... Ma chi era più allegra delle due? Non lo so, sai. Sentiamo Giorgia. Giorgia, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. Eccomi. Volevo dirle una cosa. Io trovo che sia... Io qua resto 2 anni, quasi. Insomma, sono abbastanza carina, piena di interessi, di entusiasmo, di voglia di vivere. Infatti invidio molto la signora di 50 anni. Doti di cui agli uomini normalmente non interessa molto, onestamente. Una donna abbia interesse e voglia di vivere. Glielo dico cinicamente, ma lo dico questa mattina, voglio essere spietato come può essere spietato un medico davanti a un malato terminale. Cosa ce ne importa a noi che lei abbia interessi? Ho invidiato molto la signora di 50 anni che ha tutte queste proposte di... Però c'è un fattore secondo me che è molto importante da considerare, che trovo che quando una donna è disponibile per un impegno di un amore serio, di un rapporto serio, viene in qualche modo da certi uomini messa da parte. Se invece è disponibile per il divertimento, per i viaggi e per il sesso, per un'avventura, insomma, si è sempre... Ma questo non se lo spiega, signora, scusi, cioè Giorgio. Me lo spiego, sì. Secondo me siete un po' anche cambiati voi. Noi siamo delle gran rompiscatole, le donne sono noiose. Io non appartengo, non mi ritengo inquadrabile in nessun genere, quindi voi, io... voi scusi, in generale, insomma, gli uomini forse che ho incontrato io sono magari separati, vengono fuori da dei matrimoni infelici e vogliono solo divertirsi. Capisco anche che sia giusto, come molte donne desiderano a un certo punto. Anche lei ogni tanto dovrà divertirsi, spero. Spero anch'io di divertirmi nei prossimi tempi. Comunque ho imparato una cosa: a star da sola ho imparato, dopo amori disgraziati, finiti male, ho imparato a volermi molto più bene, a cominciare a capire veramente che cosa mi piacerebbe in un rapporto a due e comunque a essere anche molto brava a star da sola. Mi diverto molto, mi organizzo dei viaggi. Di necessità ha fatto virtù. Lei non andrà a Cuba, ma andrà in posti che le daranno altrettante soddisfazione. Sentiamo Daniela. Daniela, buongiorno. Daniela, un momento di defaillance. Allora sentiamo Dania. Ciao, buongiorno Gianluca. Allora, io sono stata sposata e ora sono una single separata. E tra le due, tra sposata e single, alla grande la seconda opzione. Posso affermare quasi... Perché lei ha avuto tu hai avuto l'esperienza... sia da sposata... La nostra amica che ha scritto il libro, Angela Di Pietro, non ha avuto questa fantastica esperienza della sottomissione coniugale. Quindi... per me... Tanto fantastica per me non è stata. Ma perché comunque... è fantastica virgolettato. Ah, ecco, va bene. E ti stavo... Non sa che significa averci un uomo accanto che russa, con le unghie dei piedi che tagliano, con le ascelle che puzzano, che si alza la mattina, che non ti guarda manco in faccia, che ti lascia i peli nel lavandino e tutte queste cose qua. Infatti. Allora, la vedo molto spoetizzata, Angela. No, incantata. Vabbè. Andiamo avanti. E ti dicevo che tra sposata e single io preferisco la seconda opzione e posso affermare quasi certamente che non laverò mai più camicia uomini. Ma non avete una lavatrice, guarda, non è che costi tanto. No, va bene. Se il problema è quello, nessuna donna pensa di più le camicie agli uomini. Nel senso che non vorrò più un uomo in casa, perché non voglio più proprio le menate che comporta... Qual è il tempo massimo di tolleranza di un uomo in casa? Ma proprio il minimo sindacale... Cioè? Quanto? Tempi? Tempi, ma per sempre? No, te quanto puoi tollerare adesso, dopo la tua... Zero. Cioè, quindi parente è castità totale? Sì. Vabbè, scusa, ma è una scelta folle. Per ora? No, per ora così, proprio rifiuto, ma... Vabbè, c'è una patologia emergente dietro, scusa. No, è una patologia, è proprio... Vabbè, come t'avesse castrato ogni capacità affettivo, relazionale, sessuale, carnale. Sì. Lo dici con questa leggerezza. Sei lobotomizzata dalla vita in giù. No, va bene. Poi, per ora è così, ma aspetta, però... Perché poi fai... Beh, c'è 40 passanni, non è che c'è tutta la vita davanti, Ho capito, ma io sto bene attualmente, ma bene veramente. Ma questo senti, guarda, messo sul telefono sbatterei la testa sul muro, non puoi star bene in queste condizioni. No, va bene, io ti sto dicendo, un uomo in casa. Rifare una famiglia, un uomo... No, ma ti ho detto, quanto tempo lo tolleri adesso? Cioè, un amico ti viene a trovare e bersi un bicchierino di acqua minerale. Ma quanto tempo? È questo andare e venire? Quant'è il tempo massimo? Capire questo, volevo capirlo. Mezz'ora. Mezz'ora, basta, mezz'ora. Spero tu non abbia riparazioni gravi da fare a casa, perché anche un idraulico minimo tre quarti d'ora ci mette anche a cambiarti soltanto la guarnizione di un lavandino. Quindi spero che tu possa aumentare. Lo faccio a metà lavoro. Va bene, grazie. Ciao Gianluca, ti volevo dire che purtroppo per me la singletudine è imposta dopo 50 anni, perché io in realtà tra un fidanzato e l'altro avevo sempre trovato qualcuno, invece adesso praticamente dopo 50 anni non mi guarda proprio più nessuno, perciò io ritengo che sia un fatto puramente legato alla specie. Aveva ragione Schopenhauer, noi siamo comandati dalla specie, quindi non c'entra niente l'amore, la passione, cioè è un fatto puramente ormonale. Una volta che cade il discorso ormonale, cade tutto. Sarà una riflessione amara, ma io l'ho provato scientificamente. Siamo fatti anche di ormoni, siamo fatti anche di sinapsi, siamo fatti anche di neurotrasmettitori, siamo fatti anche di materia organica. Io ho sempre detto che non esiste un primato dell'interiorità sulla carnalità, sono due domini che dovrebbero bilanciarsi. Non esistono i belli dentro privilegiati rispetto ai belli fuori, non esistono gli intelligenti che è molto meglio dei belli, e non esistono le belle che per forza devono essere intelligenti. Ma in questo difficilissimo binomio, in questa soluzione, in questa equazione di assolutamente impossibile soluzione con le sole proprie forze, ahimè l'uomo va cercando qualcosa che non trova più alle sue latitudini. Angela Di Pietro, che ha scritto La rivincita delle zitelle, come ho già detto, c'è una parte sofferta, meditata, lacerante del suo libro, che parte proprio da una serie di illusioni. Questi uomini che lei aveva l'illusione di avere perlomeno portato nella sua cerchia interiore più vicina, quasi vicino alla possibilità, forse nemmeno tanto remota, di vivere una vita, a un certo punto scappano, vanno via. In particolare uno se ne va verso Cuba, seguendo quello che è uno dei sogni di paradisi artificiali di disponibilità femminile più frequentato alle nostre altitudini. Oggi gli uomini vanno dalla cubana, vanno dalla bielorussa, vanno dalla latinoamericana, perché si illudono di essere nuovamente al centro di una sorta di universo in cui il maschio è il dominatore. Queste donne sono bravissime a farcelo credere, hanno dei punti meravigliosi a favore di questa felicità temporanea e momentanea. Certo, poi quando tornano a casa questi uomini si rendono conto che in realtà la delusione è cocente, non sono uomini degni di essere al centro nessun universo femminile, e cominciano a guardarsi in faccia fra uomini e cominciano a organizzarsi, come oggi le cronache ci insegnano, in crearsi succedani, surrogati di femminilità. Gli uomini hanno reinventato la femmina ideale andando a travestiti, andando a transessuali. Alfredo. Pronto? Eccomi qua, cosa ne pensi? Buongiorno dottor Nicoletti. Buongiorno. Guardi, io le volevo raccontare un aneddoto molto simpatico, e cioè di aver conosciuto una donna dai 40, insomma, di 37 anni, due anni fa. Conosciuto in che senso? Nel senso, l'ho conosciuta a casa di amici, a una cena. Ma poi l'ha continuata a conoscere biblicamente parlando? Esatto, l'ho conosciuta. Lo dica, non è che c'è un problema, cioè ognuno si approfitta delle mogli altrui, quindi non è che... No, vabbè, era una donna sposata, però io non sapevo la sua situazione, che poi... sì, non la sapeva. Quasi... Non sapeva che fosse sposata. Gli aveva nascosto? No, nel senso, io sapevo che era sposata dall'inizio, ma non sapevo che avesse una situazione così triste e che la faceva diventare una zitella anche se era sposata. E qual era la situazione triste? La situazione triste era che questo marito, dopo due anni di matrimonio, aveva cominciato a considerarla come una sorella. Dunque non avevano più nessun tipo di rapporto, ma neanche una carezza, un bacio, un ciao, un mazzo di fiori, insomma. Angela Di Pietro, è un fenomeno che conosci, il marito non trombante. No, il marito non trombante è diffusissimo. Naturalmente, non avendo un marito, non posso testimoniare per me, ma per persone che conosco benissimo. Ma perché, perché ha una zitella come amante, o perché in generale a un certo punto gli passa proprio la fantasia? Perché secondo me gli passa proprio la fantasia. Non credo che sia necessariamente un fatto di corna o di cose. Perché e quindi Alfredo, la sua compagna casuale sentiva affrancata dalla sua fuga adulterina dal fatto che non fosse gratificata. Pronto? Mi sente? Sì, la sento, anche se ha la voce rotta dall'emozione. No, non la sento più. A me è caduta. Daniela, c'è Daniela adesso? Sì, sono qui. Ecco Daniela, avanti, porti la sua dolorosa testimonianza. Ma dolorosa non è affatto, devo essere sincera, perché io sono sicuramente analizzando zitella, probabilmente lo sono fin da quando sono nata, perché sono sempre stata refrattaria e insofferente ai legami. non ho sposato neanche il padre di mia figlia, quindi all'epoca fu uno scandalo, però ho deciso... Quindi una zitella felice, lei, consapevole, per scelta. Io sono consapevole, ho vissuto la mia vita in una certa maniera, cercando di non filarmi in legami strettamente proprio di... Ma allora perché ha questa voce mesta e rassegnata? No, io non sono mesta. La voce sì? No, assolutamente. Sicuri se non riconosco la voce. Ricasta, faccio... No, no, ma qual è l'aspetto fulgido e splendido della sua zitellaggine? Capito, Elena? Scusa, Daniela, l'aspetto fulgido e splendido del tuo essere zitella? L'aspetto fulgido è questo. Intanto, cioè, sono libera di fare quello che mi pare. Se devo fare una cosa, devi sempre ragionare se sei in due. Cioè, già lo fai perché c'è un figlio. Poi, se devo farlo anche perché c'è un uomo nella mia vita, devo assolutamente ragionare per due, perché questo... Vabbè, sei libera delle tue scelte. Non vai al punto, stai divagando, quindi ti risparmio la motosega, però mi fermo. E do la parola a Gaia. Gaia, buongiorno. Buongiorno. Io... Questa mattina non ero affiancato soltanto da una zitella, ben due zitelle, perché il libro di Angela Di Pietro, La rivincita delle zitelle, ha una sua interlocutrice. Gaia è la tua amica zitella? Certo. Ecco, come vi confortate, come vi consigliate, come vi leccate le ferite inferte da questi uomini spietati, voi zitelle di Latina? Ovviamente consolandoci l'un con l'altro, spesso dicendoci... Ma anche tu sei caruccia, però. Grazie. Ma anche tu sei considerata soltanto un oggetto per fuggevoli, carnali e piaceri sessuali, poi ti vieni no, abbandonata. Io ho un'altra modalità di approccio da parte degli uomini, nel senso che appena mi vedono hanno questi colpi di fulmine incredibili. Beh, non li posso anche capire. Per cui dopo la prima uscita, l'ultimo episodio che è capitato forse un mese e mezzo fa, finita la cena, guarda, veramente sei una ragazza incredibile, ma poi anche beh, è il momento dell'intima d'azione, oltre una bella ragazza, hai anche una bella testa, veramente mi piaci, e ti metto una mano sulla nuca e se la il giorno dopo mi ritelefona e mi dice guarda, sicuramente ci vediamo, dopodiché scompaiono nel nulla. Sì, ma c'è dopo la consumazione? No. Ah, nemmeno la consumazione? No. Questo è veramente un dubbio. Mi aprite un orizzonte che non conoscevo, però. Angela, come mai? No, non lo so. Ma perché arrivano allora al momento della seduzione, all'ante ostium del piacere, e poi abbandonano e scappano? Perché? Non lo so. Cosa cercano? Mi viene da dire che noi emettiamo dei segnali di disperazione e di trappola. Ti è accaduto spesso, Gaia, questa così cosa? E in quest'ultimo periodo abbastanza, devo cioè dire. Cioè ti arrivano, ti portano a cena, ti vellicano, sì, ti carezzano, sì, ti fanno sentire al centro dell'attenzione. Il momento in cui potrebbe scapparci anche un bacio romantico, una carezza romantica, esatto, un'intima d'azione romantica, scappano via. E non è che scappano, scompaiono. Fine. Scompaiono nel nulla. E il bello è che non Latina non è una città enorme, sì, per cui scompaiono a Latina. Scompaiono a Latina, per cui passano anni in cui tu non li incontri, non li intravedi, non ne senti neanche più l'odore. Vabbè, alla fine finiranno tutti gli uomini e rimarrete da sole, voi zitelle, contemplerete la palla al centro della fontana e direte che forse il mondo è un po' cambiato da come voi lo immaginavate. Ringrazio Angela Di Pietro, autrice della rivincita delle zitelle, fra qualche giorno in libreria, storie tragicomiche di amori, sesso e cerette. Ci sentiamo lunedì. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Radio 24. La passione si sente.